America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Well, BBC News understands that the man who has become known as Jihadi John, the man who has stood in many of the Islamic State videos with a knife as the hostages, some of the hostages were beheaded, BBC believes he is called Mohammed Emwazi. Beh, come avete sentito dalle notizie, Mohammed Emwazi, 27 anni, giovane di buona famiglia e il tagliatore di teste che abbiamo visto nei video orrendi quando venivano uccisi dei prigionieri innocenti, anche lui è stato affascinato dal canto della sirena jihadista. Perché? Beh, perché è inglese, sappiamo chi è, appartiene a una famiglia molto per bene, eppure è andato in Siria per partecipare a questa guerra santa. La sfida continua, abbiamo visto quello che è successo a Brooklyn, 3 arrestati qui in America, le 3 ragazze in Inghilterra che sono partite, erano in Turchia per poi andare in Siria. Insomma, questi jihadisti sono fra noi e questa è la preoccupazione. Abbiamo un'instabilità, per esempio in Libia, che a noi preoccupa molto perché porta questi terroristi molto vicini alle nostre coste. Ecco, di questi rischi, di questi problemi, ne parlo con Mike Rogers, che fino a qualche settimana fa era il presidente della Commissione Intelligence alla Camera, che ha lasciato il Congresso per partecipare un po' alla corsa presidenziale per alimentare il dibattito sulla sicurezza, prima in Iowa, poi in New Hampshire, per i candidati. Qualcuno pensa che in caso di vittoria repubblicana sia un possibile candidato per la guida al Pentagono o alla CIA. E dunque, Chairman Rogers, good morning. Presidente Rogers, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per avermi ospitato e per avermi dato questa possibilità. Bene, cominciamo dalla Libia perché siamo molto preoccupati di quel che sta capitando in questo paese così vicino a noi. Come vede la situazione? La Libia è un problema da troppo tempo. Fin dalla guerra in Iraq si era costituito al fronte un avamposto di elementi estremisti che hanno poi trovato spazi per rientrare con lo sgretolamento del governo in Libia. Avremo bisogno di una coalizione regionale, America inclusa, che stabilizzi il paese, rafforzi il governo legittimo e isoli e distrugga gli estremisti. Alcune delle migliori strategie di intelligence che abbiamo avuto per gestire la crisi venivano proprio dall'Italia, e questo grazie alla relazione molto speciale che l'Italia ha sempre avuto con la Libia. Per questo è estremamente importante che l'Italia guidi il tavolo per mettere assieme questa coalizione. Ma la diplomazia non può essere sola, ci devono anche essere degli interventi per mettere pressione su quelle forze che destabilizzano la Libia. Si riferisce a interventi come quelli dell'Egitto nella regione orientale libica, per esempio? Assolutamente sì. È fondamentale rallentare lo slancio emotivo degli estremisti perché sono convinti di vincere questa battaglia. Bisogna che questa idea svanisca. Se si vuole ottenere la riconciliazione nazionale in Libia e la stabilità, le parti devono sapere che c'è un martello pronto a colpire il chiodo. E senza questa minaccia non credo sia possibile ottenere con la diplomazia i risultati di cui abbiamo bisogno. Ecco, l'amministrazione Obama però ha riserve su quel che ha fatto l'Egitto, l'Algeria teme che il Cairo abbia interessi espansionistici. Lei crede che l'Egitto abbia fatto bene a fare quello che ha fatto? Sì, credo di sì. L'Egitto è stato oggetto di attacchi ai suoi confini per molti anni. Gli estremisti giocavano al confine grazie anche all'anarchia assoluta che c'era in Libia. È normale che l'Egitto cerchi di rallentare il traffico di jihadisti che passa per i suoi confini, tanto più che deve combattere schermaglie anche nel Sinai, dall'altra parte del paese. E dunque, se vogliono avere un impatto nel Sinai, se vogliono controllare il traffico d'armi destinato ad Hamas, se vogliono proteggere la popolazione ai confini, gli egiziani devono dimostrare di essere pronti ad attaccare questi estremisti. È quello che hanno fatto e per questo appoggio la loro azione. Bene, cosa pensa del fatto che il Qatar e soprattutto la Turchia, che è un alleato della NATO, stanno destabilizzando, insomma, ulteriormente questa situazione? Guardi, l'ho detto pubblicamente l'anno scorso. Dovremmo avere una discussione franca sul ruolo della Turchia nella NATO. Non hanno contribuito come avrebbero dovuto al conflitto in Siria e non appoggiano il legittimo interlocutore in Libia. Il Qatar ha appoggiato aggressivamente gli estremisti islamici nella regione con pessime conseguenze. Dobbiamo avere vari fronti diplomatici. Uno per riconciliare le differenze tra Turchia, NATO, Qatar, l'Egitto e le altre potenze regionali. L'altro per l'instabilità in Siria e in Iraq. Credo che si possa fare, ma c'è bisogno di una vera leadership con una forte messa a fuoco. È chiaro che tutto è collegato, ma ci vuole un'attenzione separata sulla questione libica. Il nostro governo non ha organizzato questo binario parallelo e per questo ho detto che l'Italia potrebbe svolgere il ruolo di capotavola per mediare tra le varie fazioni in Libia. Ecco, in Italia, devo dire, siamo molto preoccupati per le minacce che abbiamo avuto di attacchi terroristici da parte degli estremisti dell'ISIS, dicono di essere vicini a Roma. Ecco, che lei sappia, ci sono conferme, avete avuto conferme dall'intelligence americano che fra le decine di migliaia di clandestini che arrivano ogni anno in Italia possono esserci degli estremisti jihadisti? Sì, perché abbiamo visto un cambiamento di fondo alla fine dell'anno scorso, quando sono stati individuati 8 australiani che stavano completando il processo di reclutamento per l'ISIS. Ma l'ISIS gli ha chiesto di restare a casa, di rapire persone a caso, senza programmare, decapitarle, filmare l'azione e mandare il film per usarlo come propaganda. Questo messaggio è stato fortunatamente intercettato dalla polizia australiana. Subito dopo abbiamo visto gli arresti in Quebec e a Bruxelles, molto attivismo locale. Hanno cambiato gioco. Sappiamo quanto può essere facile per l'ISIS, se non l'hanno già fatto, mandare qualcuno dalla Libia in Italia. Per questo tutti dobbiamo essere seriamente preoccupati e aumentare il livello di sicurezza. Saremmo ingenui a non pensare che alcuni di questi jihadisti, estremisti o islamisti radicali si siano infiltrati in Italia. È già successo in Giordania, nei campi dei rifugiati, nonostante i controlli. E se lo abbiamo visto ai confini giordani, può essere benissimo successo in Italia. Ecco, cosa suggerisce di fare? Di condividere intelligence, di aumentare i controlli? E mi dica anche cosa pensa del fatto che molti di noi si preoccupano più della violazione della privacy che del pericolo di un attacco terroristico? Penso che si possano avere entrambe le cose, privacy e controllo. Purtroppo il dibattito sulle intercettazioni dava l'impressione che volevamo controllare le comunicazioni di tutti, preoccupandoci di tutti. Un modo di spiegare la vicenda sbagliato. Oggi una telefonata dall'Italia all'America passa magari per il Canada e dunque gli addetti alla sicurezza debbono navigare in un mare di traffico elettronico. Lo stesso vale per le email. E dunque sì, definiamo che cosa si può fare e cosa non si può fare, ma questo è il momento sbagliato per rendere le cose difficili ai nostri agenti che cercano di dare la caccia ai terroristi. Ecco, lei non crede che tutti i paesi del mondo islamico dovrebbero unificarsi contro questo jihadismo per dimostrare che sono decisi a estirpare quello che è soprattutto un loro problema e che i nemici sono un'assoluta minoranza, possono dimostrarlo in fondo? Poi mi pare che lei abbia parlato anche con la Lega Araba a Washington, ci può dire che cosa vi avevano detto? Credo che non si potrà mai risolvere il problema senza coinvolgerli. Ma questo significa che paesi come il Qatar, la Turchia, l'Arabia Saudita, la Giordania, l'Egitto e altri dovranno unirsi per temperare questo estremismo radicale. E quanto più a lungo i terroristi potranno vantare un successo o una vittoria, tanto più facile sarà per loro continuare a reclutare. Riescono a dare un senso di realizzazione a molti giovani musulmani attirati da questa jihad violenta, anche se loro non sono violenti in potenza. Mi torna in mente quel che si diceva quando ero agente dell'FBI. Il primo omicidio è molto difficile, il secondo è molto facile. L'ISIS raggira questi individui facendoli sentire parte di qualcosa più grande di loro, che li realizza, e per farlo usano gli imam, le moschee, le madrasse. Ecco, questo è un problema centrale per la fede islamica che gli stessi musulmani devono affrontare. Alcuni anni fa, quando ancora non si parlava di ISIS, la Lega Araba venne a Washington e ci parlò di un gruppo di circa 1500 estremisti rilasciati dalle prigioni irachene e guidati da un uomo di nome al-Zarqawi. Questi uomini trovarono rifugio nel caos della Siria orientale grazie al fatto che Assad era già allora sotto pressione. Quindi la Lega Araba ci avvertì che questo gruppo stava diventando molto pericoloso e che voleva cominciare a fare qualcosa anche di piccolo per contrastarne la crescita. Ma il presidente non era interessato. Poi quelli sono cresciuti a un ritmo certamente più rapido di quel che si poteva immaginare. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su media24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bruce Springsteen ha scritto World Apart, una canzone che fa parte di The Rising, l'album post-attacco 11 settembre. Parla di due mondi separati, quello occidentale e quello arabo. In realtà il mondo veramente separato è quello degli estremisti jihadisti, sono loro il mondo separato. Noi apparteniamo col mondo arabo, col mondo islamico, a un altro mondo, e dunque nello spirito del multiculturalismo e dell'unità contro questi assassini vi propongo A World Apart di Bruce Springsteen. Taste the seed upon your lips, lay my tongue upon your scars, when I look into your eyes, and we stand worlds apart. La la la. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!